Quadriennale d'arte. Non perdere la più importante mostra sull'arte contemporanea in Italia. 150 opere, 99 artisti, le ultime tendenze, i grandi miti del nostro tempo. Al Palazzo delle Esposizioni di Roma fino all'8 gennaio. Quadriennale16.it. Ad alta voce, Piero Baldini legge A sud dello slot di Jack London. Traduzione di Elena Marsi. La vecchia San Francisco, la San Francisco di prima del grande terremoto, era divisa a metà dallo slot. Lo slot era una fenditura di ferro che correva al centro di Market Street. E dallo slot proveniva il continuo e incessante ronzio del cavo che trascinava il tram su e giù, senza posa. Per la verità le fenditure erano due, ma nel linguaggio un po' spiccio dell'Ovest, esse e tutto ciò che rappresentavano venivano chiamate semplicemente lo slot. A nord dello slot c'erano i teatri, gli alberghi, i negozi di lusso, le banche e i rispettabili edifici dove avevano sede le grandi compagnie. A sud dello slot c'erano le fabbriche, gli slum, le lavanderie, le officine meccaniche, le industrie di caldaie e le case delle classi lavoratrici. Lo slot era una vera e propria metafora della spaccatura in classi della società e nessuno seppe attraversare questa metafora più volte e con maggior disinvoltura di Freddy Drummond. Drummond prese l'abitudine di vivere da una parte e dall'altra, cavandosela egregiamente in entrambi i mondi. Era professore nel Dipartimento di Sociologia all'Università della California e proprio in veste di professore di sociologia attraversò lo slot per la prima volta vivendo per 6 mesi nel grosso ghetto operaio per poi scrivere Il lavoratore non specializzato, libro salutato ovunque come valido contributo agli scritti inneggianti al progresso, oltre che eccellente risposta alla letteratura di protesta. I primi tempi Freddy Drummond incontrò difficoltà enormi nei rapporti con i compagni di lavoro. Non era abituato al loro modo di fare, né di certo loro erano abituati al suo. Non si fidavano, non avevano mai visto nessuno come Freddy. Era il suo primo lavoro, aveva le mani troppo delicate e le sue maniere straordinariamente raffinate risultavano piuttosto sospette. All'inizio aveva pensato di recitare la parte dell'americano libero e indipendente che aveva scelto di fare un lavoro manuale, senza dare ulteriori spiegazioni. Ma ben presto si accorse che il suo piano non funzionava. Sulle prime venne accolto come un tipo un po' bizzarro. Poi, man mano che imparava a muoversi nell'ambiente, insensibilmente scivolò nel ruolo giusto, vale a dire nei panni di uno che aveva visto giorni decisamente migliori, ma al momento navigava in pessime acque, anche se si trattava senz'altro di una semplice crisi passeggera. Le molte cose che imparò e le conclusioni generali e spesso erronee che trasse dalla sua esperienza le mise tutte nero su bianco nelle pagine del lavoratore non specializzato. Si porse comunque al riparo da eventuali critiche, ricorrendo al tradizionale e sicuro espediente accademico di presentare le sue conclusioni come provvisorie. Il suo primo impiego lo ebbe alla grande Wilmax Cannery, dove assemblava a Cottimo cassette da imballaggio, i cui pezzi erano forniti da una fabbrica di scatole. Lui doveva solo mettere insieme le assi e inchiodarle con un martello leggero. Non era un lavoro specializzato, ma era a Cottimo. I lavoratori della fabbrica guadagnavano in media $1.50 al giorno. Freddy Drummond notò che quelli che assemblavano cassette se la prendevano piuttosto comoda e riuscivano ad arrivare a $1.75 al giorno. Il terzo giorno era già in grado di guadagnare altrettanto, ma era ambizioso, non amava perdere tempo ed essendo eccezionalmente bravo e capace, il quarto intascò $2. Il giorno seguente, imponendosi un ritmo di lavoro massacrante, arrivò a $2.50. Si guadagnò così le occhiatacce e i commenti salaci e offensivi degli altri operai. In un linguaggio a lui incomprensibile, lo accusarono di essere un leccapiedi e di darsi troppo da fare per aumentare il ritmo di produzione. Sbalordito dalla loro mancanza di iniziativa, Freddy Drummond trasse le sue conclusioni sulla congenita pigrizia dei lavoratori non specializzati. E il giorno seguente inchiodò casse per $3. Quella sera, all'uscita della fabbrica, venne affrontato dai compagni inferociti che urlavano frasi sconnesse in uno slang oscuro. Non riuscivo ad afferrare il perché di un comportamento così ostile. Quando si rifiutò di rallentare il ritmo e cominciò a blaterare di libero contratto, l'americanismo indipendente e dignità del lavoro, passarono all'azione, privandolo di ogni possibilità di stabilire il ritmo. Fu una dura lotta, perché Drummond era un pezzo d'uomo e un atleta, ma alla fine la combriccola gli saltò addosso, spaccandogli le costole, prendendolo a calci in faccia, pestandogli le dita, e solo dopo una settimana riuscì a rialzarsi dal letto per cercare un altro lavoro. Tutto ciò è narrato con dovizia di particolari in quel suo primo libro, nel capitolo intitolato «La tirannia dei lavoratori». Qualche tempo dopo, in un altro reparto della Wilmax Connery, dove si occupava di distribuire la frutta fra le donne, provò a caricarsi due cassette per volta e fu subito richiamato dagli altri facchini. Quegli uomini erano dei lavativi belli e buoni, ma in fin dei conti lui era lì per osservare, non per cambiare le cose. Si limitò dunque a caricarsi un'unica cassetta e studiò così a fondo l'arte dello scansafatiche che dedicò all'argomento un intero capitolo, concludendolo con diversi paragrafi di possibili conclusioni. Dopo 6 mesi e molti altri lavori, giunse alla fine a somigliare assai da vicino a un vero membro della classe operaia. Dotato di una naturale sensibilità linguistica, intraprese uno studio scientifico sullo slang dei lavoratori, continuando a prendere appunti finché non fu in grado di esprimersi alla perfezione. La padronanza del linguaggio si tradusse anche in una più intima comprensione dei processi mentali dei compagni, consentendogli di raccogliere numerosi dati per un eventuale capitolo di un libro futuro che avrebbe potuto intitolare «Sintesi di psicologia della classe operaia». Prima di emergere in superficie dopo il primo tuffo in questo mondo sommerso, scoprì di essere un bravo attore e di possedere una natura estremamente versatile. Fu il primo a meravigliarsi della propria disinvoltura. Superata la barriera del linguaggio e messi a tacere certi fastidiosi scrupoli, scoprì di potersi insinuare in ogni angolo della vita degli operai e si adattò così bene da sentirsi perfettamente a suo agio, come scrisse nella prefazione del suo secondo libro, Il lavoratore. Si era sforzato di conoscere a fondo gli operai e l'unico modo per riuscirci era lavorarci assieme, mangiare quello che mangiavano loro, dormire negli stessi letti, divertirsi come loro, avere gli stessi pensieri e sentimenti. Non era un gran pensatore, non credeva alle nuove teorie e si atteneva sempre a norme e criteri tradizionali. La sua tesi sulla rivoluzione francese rimase celebre negli annali dell'università, non solo per l'accuratezza e la vastità della ricerca, ma per il fatto di essere la cosa più arida, noiosa, formale e ortodossa mai scritta sull'argomento. Era un uomo estremamente riservato, con numerose ferree inibizioni. Freddo e poco espansivo, non aveva molti amici. Era privo di vizi e non gli si conoscevano tentazioni. Detestava il tabacco, aborriva la birra e nessuno lo aveva mai visto bere niente di più forte di un occasionale bicchiere di vino durante i pasti. Quando era matricola, i suoi compagni l'avevano battezzato Ghiacciaia, mentre fra i colleghi di facoltà era noto come Iceberg. Una sola cosa non gli andava giù, il diminutivo di Freddy, che gli avevano affibbiato quando giocava nella squadra di calcio dell'università e che non era più riuscito a togliersi di dosso, tranne che in occasioni ufficiali sarebbe rimasto per sempre Freddy. E in visioni da incubo si figurava un futuro in cui tutto il suo ambiente avrebbe parlato di lui come del vecchio Freddy. In effetti era molto giovane per avere un dottorato in sociologia. Aveva appena 27 anni e ne dimostrava ancor meno. Alto e robusto, il viso ben rasato e i modi garbati, sano, pulito, onesto, apparteneva chiaramente all'ambiente accademico. Aveva fama di essere un ottimo atleta e gli si riconosceva una vasta cultura. Ma il suo era un sapere arido, di carattere inibito. Non parlava mai di lavoro se non in classe o nei consigli di facoltà. Solo in seguito, quando i suoi libri gli attirarono una fastidiosa notorietà, si piegò a tenere conferenze presso circoli letterari o economici. Faceva tutto bene, troppo bene, Si vestiva e si comportava sempre in modo assolutamente appropriato. Non che fosse un damerino o tutt'altro, ma si capiva subito che veniva dall'ambiente accademico. Somigliava in tutto e per tutto a quel tipo di giovani professori che gli istituti di istruzione superiore sfornano in gran quantità. La sua stretta di mano era sufficientemente forte e decisa. Gli occhi erano gelidamente azzurri e persuasivamente sinceri. La voce ferma e virile, chiara e limpida, piacevole all'ascolto. L'unica debolezza di Freddy Drummond era la sua inibizione. Non perdeva mai il controllo di sé. Ai tempi in cui giocava a pallone, più cresceva la tensione del gioco, più lui diventava impassibile. Era abbastanza apprezzato come pugile, ma veniva considerato un automa per la precisione disumana quasi meccanica con cui calcolava la distanza e calibrava i colpi, si metteva in guardia, parava e frenava gli attacchi dell'avversario. Raramente prendeva batoste e raramente ne infliggeva. Era troppo abile e troppo controllato per mettere in un pugno un briciolo di forza in più di quanto avesse calcolato. La box per lui era una questione di esercizio. Gli serviva a tenersi in forma. Con il passare del tempo, Freddy Drummond si ritrovò ad attraversare lo slot sempre più spesso e a perdersi volentieri nel mondo a sud di Market Street. Ci passava le vacanze estive e invernali. E si trattasse di una settimana o di un weekend, trovava proficuo e gradevole il tempo che vi trascorreva. E poi c'era tanto materiale da raccogliere. Il suo terzo studio, Masse e padroni, fu adottato come libro di testo nelle università americane e, quasi senza rendersene conto, cominciò a lavorare al quarto, L'errore dell'inefficiente. In questo suo gusto per il travestimento c'era qualcosa di strano. Forse rappresentava un'evasione del suo ambiente e dal lavoro, o dall'influsso dei suoi antenati che per generazioni erano stati uomini di lettere. Fatto sta che provava un grande piacere a stare laggiù tra i lavoratori. Nel suo mondo era l'iceberg, mentre lì era Big Bill Tots, beveva e fumava, parlava slang e faceva pugni e ovunque era accolto con gioia. Bill piaceva a tutti e più di una ragazza amoreggiava con lui. All'inizio la sua era stata solo un'abile recita, ma con il passare del tempo divenne una seconda natura. Non interpretava più una parte e finì con l'adorare i würstel, quei würstel e quella pancetta che nel suo ambiente erano considerati il cibo in assoluto più ripugnante. Dal camuffarsi per dovere arrivò a farlo per piacere. Si accorse di vedere arrivare con rammarico il momento di tornare alle sue lezioni e alla sua inibizione, e si ritrovò spesso ad attendere con impazienza il magico momento in cui avrebbe attraversato lo slot. Sarebbe stato libero di lasciarsi andare alle sue scorribande. Non che fosse malvagio, ma come Bill Tots faceva milioni di cose che a Freddy Drummond non erano permesse. Non solo, Freddy Drummond non avrebbe mai voluto farle. Era proprio questa la cosa più strana. Freddy Drummond e Bill Tots erano due creature completamente diverse e i loro desideri, gusti e impulsi erano inconciliabili. Bill Tots poteva oziare sul posto di lavoro con la coscienza perfettamente a posto, mentre per Freddy Drummond un simile comportamento sarebbe stato un atto immorale, criminoso e antipatriottico. Tant'è vero che interi capitoli dei suoi libri sono consacrati alla condanna di questo vizio. Freddy Drummond non amava ballare. Mentre Bill Tots non si perdeva una serata ai vari dancing, il Magnolia, la Stella dell'Occidente, l'Elite, aveva perfino vinto una coppa d'argento massiccio alta 90 centimetri come personaggio meglio vestito al grande ballo in maschera organizzato ogni anno dai lavoratori delle macellerie e delle carni. A Bill Tots inoltre piacevano le ragazze e lui a loro, mentre Freddy Drummond amava recitare la parte dell'asceta. Si opponeva apertamente al suffragio universale e con amaro cinismo condannava in segreto l'ammissione delle donne all'università. Con la massima disinvoltura, Freddy Drummond mutava atteggiamento con un semplice cambio d'abito. prima di entrare nella buia stanzetta che usava per le sue metamorfosi, aveva un'andatura un po' rigida. Stava esageratamente dritto, con le spalle un paio di centimetri troppo indietro, e il suo volto era serio, quasi duro, praticamente privo di espressione. Quando ne usciva, con addosso i panni di Biltoz, era un altro. Non che Biltoz stesse curvo, ma appariva molto più sciolto e si muoveva con grazia. Perfino la voce cambiava. La risata era forte e gioviale, e frasi audaci e bestemmie sembravano del tutto naturali sulle sue labbra. Inoltre Biltoz aveva una certa propensione a fare le ore piccole e a ingaggiare nei bar accessissime quanto innocue discussioni con gli altri operai. Ai picnic domenicali o al ritorno da uno spettacolo, il suo braccio tradiva un'usata familiarità nel cingere la vita delle ragazze, mentre dava prova di una notevole arguzia nel tipo di scherzi amorosi che ci si aspettava da uno come lui. Biltoz era un vero proletario, un genuino abitante dello slot, e il suo personaggio era così profondamente autentico che aveva sviluppato la stessa coscienza di classe degli altri lavoratori e nel suo odio per i crumiri superava buona parte dei compagni iscritti al sindacato. Durante lo sciopero dei portuali, Freddy Drummond riuscì in qualche modo a restare al di fuori della mischia e a osservare con occhio freddamente critico Biltoz, che si avventava con entusiasmo contro gli scaricatori crumiri, perché Biltoz era regolarmente iscritto al sindacato degli scaricatori e aveva tutto il diritto di avercela con chi gli rubava il lavoro. Big Biltoz era così grande e grosso e così abile che era sempre il primo a essere chiamato quando c'erano guai in vista. Partito da una semplice simulazione, Freddy Drummond si ritrovò nei panni del suo alter ego a provare genuini sentimenti di rabbia. E solo una volta ritornato nell'austera atmosfera dell'università era in grado di formulare caute e avvedute teorie sulle sue esperienze nel mondo proletario e di metterle su carta come ogni sociologo che si rispetti. Che a Biltoz mancasse la prospettiva necessaria a fargli superare una visione meramente classista, Fred Drummond lo capiva benissimo. Ma Biltoz no. Al cospetto di un crumiro non ci vedeva più dalla rabbia e il resto poco importava. Solo Freddy Drummond, irreprensibilmente vestito e composto, seduto alla sua scrivania o di fronte ai propri studenti del corso di sociologia, riusciva a vedere Biltoz e il suo mondo. Le motivazioni alla base del problema dei crumiri sindacato e la sua relazione con il benessere economico degli Stati Uniti in lotta per la conquista dei mercati mondiali. Biltoz non vedeva al di là del pasto successivo e dell'incontro di boxe la sera dopo al Gaiet Club. Fu mentre raccoglieva il materiale per Donne e Lavoro che Freddy si rese conto per la prima volta del pericolo che correva. Era riuscito troppo bene a vivere in entrambi i mondi. Questo strano dualismo aveva un equilibrio assai precario. E mentre meditava seduto nel suo studio, capì che non poteva durare. Non poteva che trattarsi di una fase di transizione. E con il tempo avrebbe dovuto inevitabilmente rinunciare a uno dei due mondi. Non poteva continuare a vivere in entrambi. E guardando la fila di libri che facevano bella mostra di sé sullo scaffale superiore della libreria girevole, i libri scritti da lui, a cominciare dalla tesi fino a Donne e Lavoro, decise che era quello il mondo a cui apparteneva e in quel mondo voleva restare. Biltoz era servito allo scopo, ma era diventato un complice troppo pericoloso, dunque doveva cessare di esistere. A spaventare Freddy Drummond era stata Mary Condon, presidentessa del Sindacato Internazionale delle Guantaie numero 974. L'aveva vista per la prima volta dalla Galleria degli Spettatori al congresso annuale della Federazione Nord-Occidentale del Sindacato e l'aveva vista con gli occhi di Biltoz, che ne era rimasto molto colpito. A Freddy Drummond non sarebbe affatto piaciuta. Cosa importava che avesse un corpo stupendo, aggraziato e sinuoso come quello di una pantera, occhi incredibilmente neri, pieni di fuoco, amore o allegria, a seconda dell'umore? Lui odiava le donne con una vitalità troppo esuberante e priva di, di inibizioni. Freddy Drummond accettava la dottrina dell'evoluzionismo perché era universalmente riconosciuta dal mondo accademico e credeva ciecamente che l'uomo si fosse innalzato nella scala evolutiva emergendo dall'informe repellente liquame in cui sguazzavano organismi inferiori e mostruosi. Ma questa genealogia lo metteva a disagio e preferiva non pensarci. Da qui derivava con ogni probabilità la sua ferrea inibizione, che raccomandava vivamente anche agli altri, e la preferenza per le donne del suo stesso tipo, che sapessero scrollarsi di dosso quella deplorevole eredità bestiale e accrescere con la disciplina e il controllo la distanza che le separava dai loro remoti antenati. Bill Tozzi non la pensava così. Mary Condon gli era piaciuta dalla prima volta che l'aveva vista al congresso e si era ripromesso di scoprire chi fosse. Il secondo incontro era capitato per caso mentre Bill lavorava per Pat Morrissey. Si trovava in una pensione a Mission Street, dove era stato chiamato per ritirare un baule da portare in deposito. La figlia della padrona di casa lo aveva fatto entrare nella piccola stanza da letto, la cui affittuaria, una guantaia, era stata appena portata all'ospedale, ma Bill non lo sapeva. Si chinò e, caricatosi il grosso baule sulle spalle, cominciò a indietreggiare lentamente verso la porta. In quel momento udì una voce di donna. «Sei del sindacato?» si sentì chiedere. «E a te che ti frega?» replicò. «Levati dai piedi e muoviti, devo girarmi!» Non aveva nemmeno finito di parlare che gli arrivò uno spintone. Grande e grosso com'era, fece mezzo giro finendo all'indietro, vacillò sotto il peso del baule e andò a sbattere violentemente contro il muro. Cominciò a bestemmiare, ma quando sollevò lo sguardo si trovò a fissare gli occhi scintillanti di rabbia di Mary Condon. «Certo che appartengo al sindacato», disse. «Stavo solo scherzando». «Dov'è la tessera?» chiese lei senza tanti giri di parole. «In tasca. Ma non posso tirarla fuori adesso, questo accidente di baule è troppo pesante. Vieni giù al furgone e te la mostro». «Metti giù il baule», ordinò lei. «Ma perché, diamine? Ti dico che ce l'ho la tessera». «Ho detto mettilo giù. Nessun crumino toccherà quel baule». «Razza di vigliacco che non sei altro. Dovresti vergognarti a sfruttare le persone oneste. Perché non fai l'uomo ed entri nel sindacato?» Mary Condon era sbiancata in viso. Era furibonda. «Un pezzo d'uomo come te che tradisce la sua classe. Immagino che muori dalla voglia di arruolarti nella Guardia Nazionale per sparare sui camionisti dei sindacati al prossimo sciopero. Magari ne fai già parte. Sei proprio il tipo». «Beh, ora basta, stai esagerando». Bill lasciò andare con un tonfo il baule, si raddrizzò e infilò la mano nella tasca interna del giaccone. «Te l'avevo detto. Stavo solo scherzando. Toh, guarda pure». Era proprio la tessera del sindacato. «Va bene, riprenditela», disse Mary Condon, «e la prossima volta niente scherzi». Vedendo con che facilità Bill si ricaricò il pesante baule sulle spalle, il suo volto si distese e gli occhi le si illuminarono alla vista della robusta scioltezza dell'uomo. Ma Bill non se ne accorse, era troppo indaffarato con il baule. Rivide Mary Condon durante lo sciopero delle lavanderie. I dipendenti delle lavanderie si erano uniti solo da poco in sindacato e, data la loro inesperienza, non sapevano bene come cavarsela e avevano chiesto a Mary Condon di aiutarli a organizzare lo sciopero. Intuendo ciò che si preparava, Freddy Drummond aveva mandato Bill Tozzi a iscriversi al sindacato per dare un'occhiata in giro. Bill lavorava nella stanza del lavaggio. Quella mattina gli uomini erano stati mobilitati per primi per dare coraggio alle ragazze e Bill si trovava per caso vicino alla porta della stireria, quando Mary Condon provò ad entrare. Il soprintendente, un tizio robusto e corpulento dall'aria minacciosa, le sbarrò risolutamente il passo. «Non avrebbe permesso», disse, «che le donne uscissero e le avrebbe insegnato a farsi gli affari suoi». E quando Mary cercò comunque di farsi avanti, la respinse con una manata sulle spalle. Mary si guardò attorno e vide Bill. «Ehi, Toots!» gridò. «Dammi una mano, voglio entrare!» Bill ebbe un fremito di gioia e di sorpresa. Si ricordava il suo nome dalla tessera. Un attimo dopo, il soprintendente, che continuava a farneticare di diritti e legislazione, veniva allontanato dalla porta e le ragazze cominciarono ad abbandonare le macchine. Per tutto il resto di quel breve e fortunato sciopero, Bill fu guardia del corpo e portavoce di Mary Condon. Dopodiché, quando fu tutto finito, Freddy tornò all'università chiedendosi cosa mai ci trovasse Bill Toots in una donna come quella. Piero Baldini ha letto A sud dello slot di Jack London, traduzione di Elena Marsi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.